快乐假期，现在出发吧。 爸爸，开车要系安全带哦。 儿子，开车要系上安全带哦。 老公，开车要系上安全带哦。 遵命。 安全带一如家人的拥抱，是牵绊，是约束，更是温暖。 北京人民广播电台提醒您，开车系好安全带，安全出游由家人的第一个拥抱开始。 北京人民广播电台古典音乐有限频道，有限调频98.6兆赫，欢迎收听。歌颂生命，舞动青春，歌舞剧场，人生与梦想的舞台。北京音乐广播古典音乐有限频道，每天10点、22点播出。 Mamma soltanto felice perché ritorno da te。 欢迎收听歌舞剧场。我是你的朋友古月，在今天的节目中，请欣赏斯泰方诺演唱的威尔第、普契尼、多尼采蒂、马斯内、博伊托等人的歌剧作品。 dei santi e della Vergine una Madonna. Siete tra le nicchie dei santi e della Vergine una Madonna. E al sordo orecchio tremulo vegliardo in mano piede appare e in ver stende alla mano. Arcai degli abituri il lucio, un uomo che non mi ha la peste di anche il suolo, e le radio appena sazia, e contro a Dio scagliava, e contro gli uomini. Prove che fa sull'occhio vostro esprime umanamente qui un guardo di pietà. Con Dio guardato a voi siccome a un angelo 声线共风的马 testa charma tu la crête fait rêve nous sommes deux seulement qui est Manon à marchand je viens de faire Fermant les yeux, je vois là-bas une humble retraite, une maisonnette toute blanche au fond de No!

Oh. Angeli, eterni lo sguardo a me. Senza nome desul, in odio del destino, pietà nell'endo il misero, pietà nell'endo il misero, la morte di. Pietà!